La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione Radio 24 qui a Montecitorio. Pomeriggio di attesa per alcune forze politiche: da una parte la sentenza della Consulta su Berlusconi e il processo Mediaset, dall'altra il responso online della rete sulla richiesta di espulsione della senatrice Gambaro del Movimento 5 Stelle. 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Prima di approfondire però questi argomenti legati alla più stretta polemica politica, non possiamo non dare conto di quanto fa il governo. Mettiamo proprio alla prova l'esecutivo. È in corso da pochi minuti il Consiglio dei Ministri, chiamato a varare un provvedimento sulle semplificazioni. Buon pomeriggio Alessandra Schepisi. Alessandra, di che si tratta? Sì, buon pomeriggio Vincenzo. Sul tavolo c'è un provvedimento snello, 39 articoli con 4 deleghe al governo, misure di semplificazione molto attese dopo il cosiddetto decreto del fare licenziato sabato scorso, che ne ha comunque anticipate alcune. Si tratta di interventi che non dovrebbero comportare nessun onere a carico delle casse dello Stato e che, come ha detto il ministro Giampiero D'Alia, puntano a eliminare la stupidità che c'è nella pubblica amministrazione, a rendere la vita più semplice a cittadini e imprese. Tra gli interventi, un primo embrione di banca dati unica per l'amministrazione pubblica, l'eliminazione di una serie di obblighi di comunicazione per i comuni che potranno sostituire la carta bollata con il web, l'alleggerimento di alcuni vincoli per le imprese di costruzione, la figura del tutor d'impresa che dovrà aiutare gli imprenditori a districarsi nei meandri della burocrazia, l'eliminazione degli obblighi di licenza per le imprese di spedizione. Il provvedimento facilita anche l'invio al datore di lavoro dei certificati di gravidanza che potranno avvenire online. E nella riunione di oggi il governo deciderà anche quando esaminare il pacchetto lavoro. Si profila uno slittamento, quindi non verrebbe affrontato nel Consiglio dei Ministri di venerdì, ma in quello di martedì prossimo. A te Vincenzo. Grazie ad Alessandra Schepisi. Vediamo e vedremo come uscirà quindi questo provvedimento da Palazzo Chigi. Torniamo quindi ai temi del nostro sommario, partendo dall'attesa per la decisione della Corte Costituzionale sul ricorso di Berlusconi sul processo Mediaset. Il Cavaliere rischia, tra l'altro, in caso di conferma della condanna in Cassazione, l'interdizione dai pubblici uffici, fatto questo che complicherebbe, secondo alcuni, la presenza sulla scena politica dell'ex Premier. La Cassazione dovrebbe esprimersi, lo ricordiamo, entro la fine dell'anno. Gasparri, PDL, mette comunque le mani avanti e dice: in caso di condanna lasceremo il Parlamento. Ascoltiamo allora Gasparri. Legittimo impedimento, ineleggibilità, tante altre vicende. Io mi auguro che ci siano delle sedi giudiziarie in cui si riconoscano le buone ragioni di Berlusconi, ma se qualcuno si illude di espellere con decisioni giudiziarie parlamentari Silvio Berlusconi dalla vita democratica, deve sapere che noi non accetteremo questo sopruso e saremmo noi a dimetterci. Ma sono certo che ci saranno i luoghi dove il buon diritto di Berlusconi troverà finalmente il modo per affermarsi. E così dunque la posizione di Gasparri, una posizione molto netta: il PDL pronto a lasciare il Parlamento in caso di condanna di Berlusconi, posizione questa che divide lo stesso Popolo della Libertà. Sentiamo allora una posizione diversa, che è quella di Mara Carfagna. Noi abbiamo più volte detto, e lo stesso Silvio Berlusconi lo ha ribadito, che la sopravvivenza della legislatura e del governo stesso sono slegate dalle sue vicende giudiziarie. Il nostro senso di responsabilità ci impone di lavorare per il bene e per l'interesse del Paese, ed è chiaro che le dimissioni in massa probabilmente comprometterebbero questo nostro atteggiamento. Credo a quel punto che lo sdegno dovrebbe arrivare da quei 10 milioni di italiani che hanno votato per Silvio Berlusconi e che probabilmente, come noi che li rappresentiamo, riteniamo inaccettabile la persecuzione giudiziaria nei confronti del nostro leader. Queste dunque le parole leggermente diverse di Carfagna, portavoce dei deputati del PDL, rispetto alle posizioni nette di Gasparri. Notizia intanto di poco fa: il 9 luglio saranno esaminati i ricorsi sull'ineleggibilità di Berlusconi presso la Giunta per le elezioni e immunità del Senato. Ricordiamo la legge del 57 che vieterebbe a chi è concessionario di una concessione pubblica dello Stato di candidarsi in Parlamento. 349-238-6666, conservate questa registrazione di Gasparri. dice un nostro ascoltatore, Berlusconi deve andare in galera, dice addirittura un altro ascoltatore. Mandate i vostri SMS. Veniamo ora al Movimento 5 Stelle. Al via il voto online per la ratifica dell'espulsione dal movimento della senatrice dissidente Adele Gambaro. Grillo sul blog ricorda che la parlamentare ha rilasciato dichiarazioni lesive per il movimento, danneggiandone l'immagine con valutazioni personali e non corrispondenti al vero, di cui la richiesta di voto agli iscritti. Polemiche che arrivano anche da chi il movimento lo ha lasciato da tempo, per esempio l'ex 5 Stelle Favia chiede la verifica esterna di queste votazioni e ricorda che nel caso delle Quirinarie furono cacciati i certificatori e si ripete il voto online senza di loro. Quindi polemiche anche su come questo voto sarà poi conteggiato. Prime parole intanto da Presidente della Commissione di Vigilanza RAI del Grillino, Roberto Fico. Ascoltiamo allora la sua posizione sul futuro dell'azienda di Viale Mazzini. Rispetto a tutto il percorso di, si ipotizzava, di vendita della RAI, chiaramente ripeto alcune cose che ci siamo già detti, che in questo momento vendere la RAI significa svendere la RAI e la RAI non si svende. Secondo, non si può vendere qualche canale RAI se non in questo paese non facciamo una legge seria sul conflitto di interessi e sull'antitrust. Faremmo peggio invece che meglio. E quindi adesso dobbiamo pensare, non certo in sé la commissione di vigilanza RAI, però dobbiamo riuscire a creare un dibattito pubblico su che cos'è la RAI come patrimonio pubblico, come questo paese e questa cittadinanza vuole il proprio servizio pubblico, e quindi iniziamo un percorso di dibattito. La RAI dunque non si vende, posizione questa del Movimento 5 Stelle. Un ascoltatore se la prende con me perché ho detto Berlusconi in galera, ma leggevo un SMS di un nostro ascoltatore. Gambaro deve andare a casa, scrive un altro ascoltatore. Brevemente, il dibattito molto teso in vista del congresso. Intanto nel Partito Democratico Epifani riunisce la segreteria, Renzi intanto avvisa gli stessi vertici del partito, congresso aperto e non si cambia le regole. Sentiamo allora Renzi ad Agorà. Per essere un paese normale c'è bisogno di avere due soli partiti. Ma le sembra naturale che uno si alza la mattina e in Italia si fa un partito? Ma solo da noi. Ma se continua, e poi c'hanno il finanziamento pubblico, e poi c'hanno tutti i vari prerogativi, i privilegi, le pensioni, i vitalizi. Facciamo una cosa semplice. Due partiti, centro-sinistra e centro-destra. Noi ci occupiamo di rendere il centro-sinistra un partito serio, civile, in grado di vincere. Per questo mi interessa il PD, mi interessa che sia aperto, che sia coraggioso, che sia un partito che non vive di ideologia ma che non rinuncia agli ideali. Il problema è, il PD lo facciamo diventare uno strumento in grado di servire al paese? Ho detto tre volte ai fiorentini, perché tutte le volte lo diciamo in occasione del patrono, lo dirò la prossima volta che è lunedì 24 giugno, io vado via da Firenze soltanto, o se mi cacciano i fiorentini, oppure se c'è la possibilità di guidare il paese. Quando mi hanno chiesto, vieni a fare il parlamentare? Vieni a fare il ministro, vieni a fare il sottosegretario, in tutti i casi io ho detto di no, e mi permetto di dirle che sono stato l'unico a non avere nessun tipo di, virgolette, premio di consolazione dopo le primarie, certo. Perché non fa per me, in prospettiva il PD va crescendo, c'è una prateria di fronte. Queste dunque le parole di Renzi, che chiede regole certe per la corsa al vertice del PDL. La politica alla prova termina qui, un saluto da Vincenzo Miglietta.